è un dossier che stiamo curando da ormai 2 anni e mensilmente raccogliamo le storie dei detenuti che per cause diverse, sia per suicidio che per malattia che per altre cause, muoiono all'interno delle carceri italiane. A novembre abbiamo raccolto le storie di 6 persone, di 6 detenuti morti, 2 di quali si sono suicidati, 3 morti di malattia e 1 di overdose. Il caso più doloroso è quello di Max Wieser, un detenuto di origini altoatesine che era ristretto a Parma, ma la particolarità è che questo uomo aveva 77 anni, soffriva già di una grave malattia, non poteva parlare perché aveva subito un intervento chirurgico alla gola, e nonostante tutto questo non aveva ottenuto una misura alternativa, ma si trovava all'interno del carcere di Parma. Va detto che c'è un'importante iniziativa indetta per il 15 dicembre. Il 15 dicembre a Roma ci sarà un sit-in di protesta davanti al Parlamento dalle 9 alle 15, quindi per ben 6 ore. Il sit-in è stato indetto dalla consulta penitenziaria del Comune di Roma, ma poi hanno aderito veramente in tanti, dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia al gruppo Abele, anche noi ovviamente come Distretto Orizzonte aderiamo. Che cosa si chiede con questo sit-in di protesta? Innanzitutto di ricapitalizzare, cioè rifinanziare le attività all'interno delle carceri, perché dal 2002 ad oggi c'è stato un progressivo taglio su tutto, sull'istruzione, sulla salute, sul mantenimento dei detenuti. I detenuti sono aumentati di 4-5 mila unità, quindi non è credibile che possa essere mantenuto lo stesso standard di efficienza, chiamiamolo così, con una riduzione consistente che ormai si aggira sul 25% nel giro di 3 anni.